differenza. Ovunque nord e sud, questa è la sentenza. Non posso stare zitto ad ascoltare. Mi si muovono le corde nella cavità orale. Credete sia soltanto un visionario. Ho cancellato impossibile dal mio vocabolario. A tempo di rap, a tempo di rap, prendi la parola. Mentre intanto come un treno corre il ritmo ancora. Un'altra grande risorsa di forza al tuo servizio. Sparagli al campo, poi spara sul silenzio, dando un senso all'istinto. È come una rima, può rompere il buio, così tu puoi rifarlo. Non c'è un segreto, questo è un dato di fatto. Tieni la corda a girare e va' attento, perché stai già volando alto. Te lo devo ridire, non sono un visionario. Ho cancellato impossibile dal mio vocabolario. E allora ancora si può passare parola. Lo si urli tutti, ne parti come in strada. Rimetti le lancette, determina l'orario. Cancella impossibile dal tuo vocabolario. Sì, a tempo di rap, onda rossa posse, bruto pop. 1990, solidarietà con gli immigrati del continente nero. Vamonos! Al tope!